Il leale John. C'era una volta, nel regno dell'isola di Delolia, un giovane carismatico re di nome Theodore. Theodore amava il suo popolo e si sforzava sempre di rendere felici le persone del suo regno. Delolia era un gruppo di isole con una ricca economia, piena di commercianti che commerciavano nel regno e nei regni vicini. Il re andava spesso in giro nel regno con il suo più fedele servitore, John. Theodore si travestiva da commerciante, John da vecchio amico di Ted, e insieme viaggiavano per il regno. È per questo che Theodore conosceva i modi migliori per rendere felice la sua gente. Ciao, Marty! Ciao, Ted! John ti sta aspettando! L'ha trovato! Grazie, Marty! Abbiamo catturato la bestia che era la causa di tutto il caos nel regno. Ma devo avvertirti, potrebbe essere un po' rumoroso. Va bene! Cosa? Cos'è quella cosa? Credo che quella cosa sia un furetto. Ehi! Chi stai chiamando una cosa? Fammi uscire da questa gabbia! Ti mostrerò che tipo di cosa sono! Lui parla! Oh sì! Sei davvero brillante! Huh? Mi chiamo Freddy! Sono stato trasformato in questo piccolo affretto peloso da quel malvagio mago Alistair! Stavo cercando solo di procurarmi del cibo quando mi è intrappolato qui! Ora portami fuori di qui, in modo che io possa tornare indietro e farmi ritrasformare da quel vecchio mago! Ma perché ti ha trasformato in un piccolo furetto? Lavoravo per il re Zario come orafo! Re Zario? Sì, quell'uomo ha fatto sì che Alistair lanciasse un incantesimo su tutti gli orafi perché gli portassero tutto l'oro in diverse forme. Ciò ha reso il resto della gente povera e infelice. L'incantesimo mi aveva in qualche modo sfinito e ho provato a scappare. Ma prima che potessi farlo, Alistair mi ha trovato e mi ha trasformato in questo! Oh, questo è davvero brutto! Oh, lo è! Lo troverò e gliela farò pagare! Potrei aiutarti! Tu? Tu e quale esercito? Se c'è qualcuno che mi può aiutare, è il re! Ho sentito che è un bravo uomo! Sono... Signore, penso che dovresti pensarci prima. Zario è stato un nemico per te e tuo padre per anni. Vuoi davvero andare laggiù e combattere? Oh, non preoccuparti, John. Non lo saprà mai. Ehi, cosa state sussurrando voi due, teste di legno? Oh, non ti preoccupare. Mi chiamo Ted e questo è John. Ti aiuteremo. Andiamo! Ted e John riportarono Freddy al castello nella stanza del re. Ecco! Che ci faccia qui? E se il re lo scoprisse? Dove stai andando? Oh, non preoccuparti, Freddy. Huh? Ciao, Freddy! Saluti, Vostra Maestà! Mi scuso per essere venuto nella vostra stanza, signore! Freddy, sono io, Ted! Conosciuto anche come Re Theodore di Delolia! Oh, il mio re! Mi dispiace per il modo in cui vi ho parlato prima! Va bene! John ti mostrerà la tua stanza dove potrai riposare. Domani, quando sorgerà il sole, partiremo! Bene, allora! Proprio così. Spero che il re Theodore sappia cosa deve fare. Mi chiedo come riusciremo a superare i cancelli. Ho la soluzione perfetta. Il re Zario è ossessionato da loro. Possiamo mascherarci da orafi e attirare la principessa sulla nave. E quindi chiedere al re di liberarmi per riavere la principessa. Freddy spiegò l'intero piano a John, che ne rimase piuttosto colpito. La mattina dopo andarono alla nave e parlarono al re Theodore del loro piano e salparono per il regno d'oro. Andiamo nel mare sconosciuto. Portiamo la principessa sulla nave. Io mi trasformo in un minuto. Andiamo dentro. Ho molta fame. Oh, cos'è quello? È un dipinto della principessa, signore. La principessa Sofia. È la donna più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Ora voglio riportarla nel regno e passare del tempo con lei. La tratterò come una regina. Terra! Vedo il regno d'oro! Ah ah! Meraviglioso! Il trio andò al castello e poi nella corte. Temo di non potervi far entrare. Veniamo a portare regali per la principessa e il re suo padre. Ah, un momento, informerò immediatamente il re. Dove è andato Freddy? Nel frattempo, mentre John e Ted stavano aspettando di incontrare il re e la principessa, Freddy corse nelle camere del mago per trovare un modo per trasformarsi. Dov'è? Dov'è quella sua bacchetta? Bene, bene, bene! Guarda chi c'è! Eh? Oh, corri! Non così in fretta! Immobile! Finalmente ti ho preso! Oh no! Non di nuovo in una gabbia! Il re Zario e la principessa Sofia vi vedranno adesso! Bene! A proposito di tempo, dai John! Saluti, Vostra Maestà! Vostra Altezza, gli orafi di cui vi parlavo? Ah, benvenuti! Un orafo è sempre il benvenuto nel mio regno! E questo è per la principessa! Oh cielo! È così bello! Un angelo per un angelo! E abbiamo molti altri manufatti d'oro sulla nave, mia signora. Per te sarebbe più facile scegliere. Posso andare, padre? Per favore! Che sciocchezza! Non ti lascerò salire sulla nave di due sconosciuti, no! Ah, per favore, padre! Sarà solo per far avere a te più oro! Per favore! Va bene, ma non da sola! Ehi tu! Vai con la principessa a bordo della nave! Sì, Vostra Altezza! Psst! Vostra Maestà! Ha visto Freddy? Lui è sparito! Oh, non preoccuparti, John! Deve essere tornato di corsa sulla nave! Mentre Ted e John portavano la principessa sulla nave, il re chiamò uno dei suoi ministri e gli chiese di scoprire chi fossero e da dove venissero quei due. Chi è quell'uomo e perché mi sembra così familiare? Scoprilo subito! Sì, Vostra Maestà! Nel frattempo, la principessa era entusiasta di vedere i vari manufatti d'oro sulla nave. Oh, wow! Così belli! Voglio questo, questo, questo e anche questo! Vai a preparare tutto! Scaricheremo presto! Come desiderate, maestà! Il piano sta funzionando, signore! Sì, non c'è tempo! Dobbiamo partire ora! Ma che dire di Freddy? Non abbiamo tempo! Andiamo! Molto meglio del Golden Mall. Ci sono così tante piccole cose carine qui. Mi chiedo dove sia quella guardia. Cosa? No! Aiuto! Ted andò da lei e le spiegò l'intera situazione alla principessa. Le raccontò della sua vera identità e di Freddy e dell'incantesimo lanciato su tutto il regno. Oh, principessa, Mi sono innamorato di te nel momento in cui ti ho vista. Mi aiuteresti a salvare il mio amico e diventeresti la mia regina? Il cuore della principessa Sofia si era ammorbidito e accettò di aiutare il re Theodore. Non sapevo dell'incantesimo! Questo è orribile! Manderò una nota quando arriveremo lì! La guardia reale vide la nave nel mare e andò ad informare il re. Il re si infuriò. Che cosa? Voglio sapere chi era quell'uomo adesso! Sì! Sembra che la nave appartenga al re Theodore di Dell'Olia. Re Theodore? Dov'è il mago? Voglio vederlo subito! Il re entrò nelle camere del mago e gli raccontò cos'era successo. Gli ordinò di lanciare un incantesimo sulla nave per riportare indietro la principessa. Sua maestà, ho due eccellenti maledizioni che distruggeranno il re! Vai avanti! Primo, quando il re scenderà dalla nave, un destriero reale sarà lì ad attenderlo. Nel momento in cui monterà il cavallo, andrà via con lui portandolo molto lontano, così da non tornare mai più. Si potrebbe salvare solo se qualcuno spaventasse il cavallo senza dirlo al re. Altrimenti si congelerebbe per sempre. Meraviglioso! E se non funziona, la seconda maledizione sicuramente lo farà. E che cos'è? Gli consegnerai questo mantello d'oro come offerta di pace e quando lo indosserà, lui e tutto il suo regno diventeranno di pietra. E se qualcuno gli parla di questa maledizione, si trasformerà in pietra in un istante. Ben fatto, Alistair. Vieni, andiamo subito al porto. Oh no! Devo trovare un modo per avvertirli. Ah, la sua bacchetta. Devo raggiungerla. Fatto! Ora, come funziona questa cosa? Apriti, Sesamo! Ah, ha funzionato! Salazim, salazum! Meraviglioso! Ora devo andare ad avvertire John! Freddy agitò la bacchetta e con uno sbuffo di fumo scomparve nel nulla. Nel frattempo, la nave era attraccata a Dell'Olia. Il re chiamò un messaggero per inviare un biglietto al re Zaerio. Spero proprio che Freddy stia bene laggiù. Ehi là, Johnny! Tu chi sei? Sono io, Freddy! Ascolta, non abbiamo tempo! Il re ha detto al malvagio Alistair! Freddy raccontò a John tutto ciò che aveva sentito e lo avvertì delle maledizioni. Gli disse che se qualcuno lo avesse detto al re, si sarebbe trasformato in pietra. Proprio in quel momento, mentre Freddy raccontava a John tutto, un bellissimo cavallo si avvicinò al re. Ecco, questo cavallo sarà perfetto per riportarci a palazzo. Proprio mentre stava per montare a cavallo, John suonò il gong che gli era stato portato. Questo spaventò il cavallo e lo fece scappare. Oh, che maleducato! Come ha potuto John fare questo al re? Va bene. John è il mio servitore più fedele. Sono sicuro che ha avuto le sue ragioni e lo ha fatto per il bene del re. Ci è andato vicino! Il re e la principessa entrarono al palazzo. Un messaggero si avvicinò a John e gli disse dell'arrivo del re Zaerio. Lui è qui? Di già? Sì, signore. Dice che viene in pace e che porta doni per il re e la futura sposa. Questo è strano. Salve, re Theodore. Saluti. Saluti, sire. Vengo a portare regali. Ti prego di accettare questo cappotto dorato. È una tradizione all'interno della mia famiglia che lo sposo indossi questo cappotto dorato come segno di forza che viene tramandato da generazioni. Wow, è meraviglioso! Ne sarei onorato. Vai avanti, perché non lo metti? Proprio mentre il re Theodore stava per indossare il cappotto dorato, John si fece da parte e prese il cappotto dalle sue braccia e lo gettò a terra. Una grande scintilla e del fumo uscirono dal cappotto. Cos'è questa follia? Come osi prendere in giro le nostre tradizioni familiari? Questa è una vergogna! Gli permetti di insultare il nostro cimelio di famiglia? Ha ragione lui, John. Non mi lasci altra scelta se non quella di infliggerti la peggior pena che ci sia. Sei bandito dal regno di Delolia per tutta la vita. No, questo è stato tutto per colpa mia. Se qualcuno deve andarsene, dovrei essere io, mio re. Penso che dovrei dirti cosa è effettivamente successo. No, no, non te lo lascerò proprio fare. Hai appena riavuto la tua vita. Prima di andarmene, mio signore, posso dire alcune ultime parole? Sì, puoi. Tutto quello che ho fatto prima era per salvarvi dagli incantesimi che il re Zario ha lanciato su di lei. Il destriero è stato spaventato con il suono del gong. Se l'avesse montato, l'avrebbe portato così tanto lontano, così tanto da non tornare mai più. E il cappotto dorato non era un cimelio di famiglia. Quel cappotto, se l'avesse messo, avrebbe trasformato lei e tutto il regno in pietre. L'ho fatto per voi, mio nobile re. Oh no, John, il mio più fedele servitore. Cosa ho fatto? Padre, come hai potuto? Padre, dove è andato? Sembra sia scappato. Oh, povero John, ora dovresti... Oh, aspetta, ho la bacchetta di Alistair. Perché non ci ho pensato prima? Salazum, salazim! Una vita sacrificata, restituita a lui! E con un soffio di brezza, il leale John aprì gli occhi e si sentì di nuovo bene. Oh, grazie, amico mio! È il minimo che potevo fare per i miei amici che hanno fatto di tutto per me. Ed anche per me. Sei la persona più fedele che abbia mai conosciuto. Da oggi non sei più un servitore, ma un amico. Ho una condizione. Se solo potesse far tornare Freddy un furetto... Così tanto per essere amico.